Professor Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo preso un professore vero di un'università vera per aiutarci a districarsi in questo difficoltosissimo e anche insidioso terreno dei corsi Lara inutili. Ricordo che Paolo Ferri è docente di tecnologie didattiche all'Università Milano Bicocca. Quindi, Paolo Ferri, noi ci conosciamo, quindi ci diamo del tu in quanto amici. Sì, volentieri. Esiste il problema del laureato in stronzologia che all'inizio sembra tutto bello, facile, creativo, e poi si trova di fronte la muraglia invalicabile del fatto che con quella laurea non ci faccia nulla? Ma no, il problema esiste. In realtà i corsi di laurea in Italia fino all'anno scorso erano 5.460, se si pensa che quando ho fatto l'università io le facoltà laureavano in 30-35 corsi di laurea, si capisce che evidentemente questa è un'anomalia. In realtà il problema dipende un po' dalla mala gestione in qualche maniera che è stata fatta della riforma che ha istituito il triennio e il biennio, perché con questa riforma è stata data l'autonomia alle università di istituire corsi di laurea a prescindere dall'ordinamento dello Stato. E quindi per ragioni spesso clientelari o per ragioni spesso di posizionamento di raccomandati sono stati istituiti una serie di corsi di laurea che sono gemmati in maniera assolutamente imprevista anche dal legislatore e ci hanno portato a questa situazione che è anche unica in Europa. Dopodiché molto spesso... Sì, questi corsi di laurea in comunicazione orale, che si capiva naturalmente che erano dati a persone sì, che non certo per, per valori accademici, per qualità di tipo accademico. Esattamente, e quindi questa distorta interpretazione dell'autonomia degli Atenei a moltiplicare l'offerta didattica ha generato questa sorta di mostro, che sono i 5.460 corsi di laurea che oggi sono diventati 4.597, ma evidentemente sono sempre